quello che vuoi. È stupido ma efficace, ridicolo sì ma audace, il popolo della rete là e a bocca già, ma a bocca già. E infatti guarda come scivola via veloce, la logica del mi piace sembrava finire, invece va. Ma quando va? Ma dove va? Pensando che il rischio non c'è, e ti diverti insultando chi è meglio di te. E se va bene un ministro, figurati a me. E dai facciamoci un selfie col morto mio te. E ti consoli pensando che il rischio non c'è, e ti diverti insultando chi è meglio di te. E se va bene un ministro, figurati a me. E dai facciamoci un selfie col morto mio te. Bevo il tempo come un sorso d'acqua, la lancetta scappa e mi ricatta. Quando io la ignoro lei mi guarda, quando la ritrovo sembra un'altra. Sono sempre pronto quando scatta l'ora di trovarmi faccia a faccia con questa ignoranza che dilaga, maga che ipnotizza e che minaccia. Un ragazzino fischia e poi l'abbraccia, danno vita ad una strana danza. Danno il beffo a bella bestia l'ansia, istantaneamente se lo mangia. Sputa forma senza la sostanza, intrappolato dentro la sua stanza. Esce con il sedativo in tasca, solo se la connessione casca. Oh! Non resta niente, e quindi finalmente puoi dire quello che vuoi. E ti consoli pensando che il rischio non c'è, e ti diverti insultando chi è meglio di te. Che se va bene a un ministro, figurati a me. E dai facciamoci un selfie col morto mio te. E ti consoli pensando che il rischio non c'è, e ti diverti insultando.